Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ringrazio per le tantissime mail che stanno giungendo in redazione. Nel mese estivo, agosto, in cui noi abbiamo mandato le repliche della puntata, mi aspettavo un ridimensionamento delle mail. Invece, ringraziando Dio, vi siete scatenati, anche se molte di queste mail non potrò trattarle perché trattano casi personali, molte altre invece sono davvero davvero interessanti. Allora, vi ricordo anche il mio blog, lo trovate con un motore di ricerca, basta che digitate o il mio nome e il cognome o Guardie o Ladri, Guardie o Ladri è appunto il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, siamo appena tornati dalle vacanze, o quantomeno la maggior parte degli italiani dalle vacanze è tornata, ma c'è chi è in ferie tutto l'anno e va in vacanza tutto l'anno per compiere uno dei reati più devastanti che possano esserci per la collettività e per la dignità umana, vale a dire gli abusi sessuali sui minori. Non si possono e non si conoscono le cifre di questo fenomeno, ma c'è chi ha provato a mettere insieme alcuni dati che da soli già fanno tremare i polsi. Si parla di circa 80.000 nostri connazionali, cioè 80.000 italiani che partono ogni anno verso mete di turismo sessuale, in cui l'oggetto e il soggetto, ma per molti di essi è solo un oggetto, è il minore, bambino, bambina, non ha importanza. L'età è varia, vuol dire da pochissimi mesi di vita a età preadolescenziali. È un tema a me particolarmente caro, perché sono padre, è un tema particolarmente caro alla radio, che tratta di temi sociali, ed è per questo che noi oggi ne parliamo con chi da anni in tutto il mondo prova a sensibilizzare gli italiani, non solo, su un tema così delicato. Ed è per questo quindi che avremo come ospiti in queste puntate Intervita Onlus. È una ONG, vale a dire un'organizzazione non governativa, base a Milano, che si batte nei paesi dell'Asia, così come nei paesi del Sud America, per cercare di portare una cultura diversa a quelle popolazioni, ma soprattutto ai nostri concittadini. Ed è per questo che io do innanzitutto il buongiorno a Daniela Bernacchi, che è direttore generale di Intervita. Buongiorno, dottoressa Bernacchi. Buongiorno a voi. Allora, dal punto di vista, diciamo così, delle mete di turismo sessuale, secondo il vostro giudizio, che estate è stata questa per i nostri connazionali? Ma guardi, è una domanda che chiaramente al momento non ha un dato certificato, nel senso che l'estate è appena finita, non si hanno ancora elementi sul fenomeno. Sicuramente il mercato del turismo sessuale è un mercato molto florido, che non soffre di crisi di stagionalità, soprattutto andando in paesi asiatici o sudamericani, dove la stagionalità e il bel tempo valgono quasi tutto l'anno. Assolutamente. Ecco, io prima, parlando con voi fuori onda, ricordavo uno splendido servizio che ho potuto leggere quest'estate su Io Donna, ma ce n'è stato uno analogo anche su Donna Moderna, in cui c'era una foto che già raccontava tutto: un signore di spalle, ripreso, fotografato, apparentemente abbiente anche per lo splendore dei posti che si trovava accanto, e alle sue spalle un ragazzino di tenerissima età che probabilmente era lì non certamente per salutarlo, ma per altri motivi. Allora io le chiedo questo, dottoressa Bernacchi: voi portate avanti un percorso da alcuni anni formativo sul turismo responsabile e sui diritti dei minori, ecco, può parlarci di questo gentilmente? Sì, intanto due dati sul fenomeno che credo sia importante avere sotto mano per capire la gravità di questa situazione. Assolutamente. Si tratta circa di 2 milioni di bambini e bambine. Quando lei giustamente dice bambini, sono anche di 7-8 anni, quindi molto piccole, anche 5 anni, che vengono sfruttati sessualmente oltre confine. E il giro d'affari, perché purtroppo dietro questo fenomeno c'è un giro d'affari che è di un'economia solidissima, secondo gli ultimi rapporti UNICEF è attorno ai 5 miliardi di dollari, per cui è chiaro che è un fenomeno estesissimo che tocca il turista italiano, ma non solo, molta parte dei turisti europei e nordamericani, cioè laddove c'è benessere e dove si pensa che in questi paesi più sfortunati o con un'economia più debole sia tutto lecito. Assolutamente, ha fatto bene a ricordare queste cifre, le ripeto, 5 miliardi di dollari il giro di affari, non è possibile avere una certificazione ovviamente, ma questa è una stima. Poi torneremo su questo discorso del fatturato, di questo fatturato vergognoso. Torniamo un attimo indietro alla domanda che lei faceva, appunto questo percorso formativo. Ecco, di cosa si tratta? Noi lavoriamo intanto nei cosiddetti paesi nord del mondo come l'Italia, quindi paesi dove c'è un certo benessere, con tutta un'attività di sensibilizzazione. Quindi Intervita è partita nel 2007 con un'attività anche di comunicazione, spettacoli teatrali, attività nelle piazze, proprio per rendere il pubblico comune, le persone e i cittadini consapevoli del fenomeno e per sensibilizzarli contro lo sfruttamento sessuale infantile. Ecco, vorrei un secondo interromperla per chiederle questo, per chi volesse avere delle informazioni e mettersi in contatto con voi o con altre organizzazioni che come voi promuovono e sensibilizzano l'attenzione su questo tema. Avete sicuramente, credo, un sito internet. Sì, sì, il nostro sito è www.intervita.it. Benissimo. Oppure si può anche telefonare al nostro numero verde 848 88 33 88. Benissimo, allora io voglio continuare con lei su questo discorso della sensibilizzazione. Lei ha detto spettacoli teatrali o quant'altro può essere utile a questa causa. Le chiedo, e le scuole? Le scuole sono un nostro canale di comunicazione molto importante, chiaramente su un tema così fra virgolette sensibile non si va nelle scuole elementari, cosa che noi facciamo con altre attività di educazione allo sviluppo, quindi per far conoscere la realtà del sud del mondo. Con un tema così diciamo delicato ci rivolgiamo al liceo, alle scuole superiori, dove appunto abbiamo dei progetti dove vengono coinvolti gli studenti, gli viene illustrato il fenomeno, gli viene illustrata l'attività di Intervita e soprattutto vengono dati degli stimoli a questi ragazzi sia nei confronti di un turismo responsabile, quindi come si può fare turismo in maniera fra virgolette sana, e poi come futuri cittadini adulti cosa possono fare loro nel loro piccolo per contrastare il fenomeno. Ecco. Perché non tutti lo sanno. Prego. Ma l'Italia ha una legislazione molto buona. Ecco, adesso ci arriviamo alla legislazione perché era il passo successivo sul quale mi sarei soffermato, però vorrei continuare in questa catena logica del ragionamento. Le scuole, la sensibilizzazione ovviamente deve essere tarata a misura di ragazzo, ma in realtà lei ha fatto bene a mettere in evidenza che poi alla fine il destinatario finale è l'adulto, il giovane che diventa adulto, ma anche l'adulto in quanto tale, perché è lui che poi commette questo, non so come definirlo, questo immane crimine. Ecco, allora, spettacoli teatrali, cioè qualcosa che è rivolta agli adulti. Ecco, come reagiscono gli adulti? In maniera distaccata, in maniera sensibile, con la coda di paglia? Perché suppongo, vado al lume di naso, che probabilmente voi vi sarete anche, come dire, trovati di fronte persone che magari qualcosa ne sapevano, visto che magari saranno stati turisti sessuali. Ecco, quindi con gli adulti l'approccio com'è? Ma allora, per quanto riguarda il teatro è un approccio molto particolare, nel senso che il teatro civile chiaramente raccoglie un pubblico di nicchia. Noi abbiamo fatto questo spettacolo assieme alla Bottega dei Messieri, Bambini a Dondolo, che già il titolo lascia prefigurare il significato di questo concetto di dondolo per un bambino, certo, turista, e sono dei monologhi piuttosto forti in cui si parla di tratta, si parla di pedofilia e si parla di bambine vendute sui moli di questi resort per turisti stranieri. Certo. Per cui chi sceglie di andare a vedere uno spettacolo così ha già una propensione, fra virgolette, sensibile, positiva. Di sensibilità sociale, certo. Vuole approfondire, probabilmente poi diventare anche, passatemi il termine, apostolo anche di questo messaggio. Dottoressa Bernacchi, lei diceva della legge. È una buona legge quindi la 269 del 98 in Italia? Assolutamente, perché è una legge che prevede la persecuzione del reato commesso all'estero e non è una legge che tutti i paesi europei hanno, quindi questo prevede che anche un liceale che va all'estero e vede un connazionale commettere un reato può denunciarlo una volta rientrato in Italia, e credo che questo sia un grande passo di proprio coscienza civile. Allora, noi ci fermiamo qui con questa prima puntata dedicata al tema degli abusi compiuti dai turisti che vanno semplicemente per comprare sesso dei ragazzi e delle ragazze. Domani continueremo con altri ospiti. Io nel frattempo dico grazie a Daniela Bernacchi, direttore generale Intervita Onlus. Grazie in regia Fabio Cantadori e in redazione Laura Fagin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani ancora con questo tema. Buona giornata a tutti.